Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È ritornato il professore, all'attacco il professor Sgarbi, che si era un po' addormentato, era diventato diplomatico, era diventato uno qualunque, insomma non puoi essere Sgarbi, andare nei talk a fare l'agnellino, solamente a ragionare, per carità è bravissimo anche a ragionare, ma non puoi fare solo quello, caro Parenzo. Sgarbi deve fare come disse da noi, ti piscio in testa, no? Quando, ma Sgarbi deve, se non fa così, così, alla fine... Beh, da noi diciamo che è stato, no? L'apice. Esatto. L'apice. Però, insomma, oggi si è ritrovato. La notizia è questa: oggi abbiamo riscoperto il professore Sgarbi contro Pina Picerno, europarlamentare del Partito Democratico, politico in ascesa. Si dice che potrebbe fare anche il candidato governatore della Campania. Così fa l'autobus, si sposta dal Parlamento italiano, Parlamento europeo, e poi facciamo una gitarella pure in Campania, no? Vabbè, ma al di là di questo, è tornato Sgarbi. Io delle tue idee non ne conosco una. Non è così, no, non è così, lo conoscono tutti gli elettori che mi hanno votato, per esempio. Non ti gare, mai sentita. Perché anche è una sua valutazione che io rispetto. Totalmente pure. È una sua valutazione che io rispetto, ma insomma, per fortuna ci sono tante persone che la pensano diversamente. Sei stata imposta senza un voto serio. Sei stata imposta senza un voto serio solamente perché ti hanno messo al numero uno, ma questo è solo l'antipasto. Sentiamo, sei inutile. Tu sei proprio il tipico parlamentare inutile. Quindi tipico inutile, messa lì perché sei una donna. Tutte donne di quel Renzi che ha bisogno nulla. Di fare lo spiritoso, vi fa diventare sue cameriere e vi mette al suo posto che decide lui. Dai, questo è Renzi. Continuano. Ecco, questa cosa io la rigetto. Sì, e devi rigettare, anche è un dato di fatto. Merlino di intervenire di Renzi, perché è una vergogna. Idee fuse, è una vergogna inaccettabile. Lei no, è un misogino. Tant'è vero che il posto tu era di Emiliano. Rispetto, il posto tu era di Emiliano. E in nome del fatto che le donne devono avere il primo posto, l'hai avuto. È inutile dirvi da che parte sto, caro Parenzo, è inutile dirtelo, no? Sì, lo sai. È inutile dirtelo, insomma, no? Sulla frase. È inutile che ti dica io da che tu parte stai sto. Con la Picerno, ma non vai. Per ragioni di amicizia, perché se c'è da criticarla, allora si criticherà, cameriera, perché di Renzi. L'autobus non piace neppure a me, quello che tu hai chiamato autobus Strasburgo-Campania, per carità. Però non si trattano le persone, non le donne, le persone così. Ma perché cameriera? Cameriera. Ma quella ha preso le preferenze, amico mio. Però le persone dice, hanno scritto Picerno, con la I si dice Picerno, hanno scritto Pina Picerno e meritano rispetto quelle persone che hanno scritto Picerno. Senti, senti questa cosa, la Picerno dice a Sgarbi che ha un problema, problema con le donne, dai. Ma sì, è vero, un po' è vero. Ma dai. Che vero? Dai. Questo vale la stessa cosa della cameriera, allora, perché devi dire a Sgarbi che ha un problema con le donne? È una scusa. Battuta che gli ha fatto. No, questa è una battuta, quella di prima no. Certo. Dai, su. No, era detto in risposta. Ma sì, ma fallo ascoltare, scusa, fallo sentire. È un problema oggettivo con le donne, Sgarbi. Io non ce l'ho, io le donne le tratto benissimo e tu purtroppo degli uomini saprai lei poco. Lei ha un problema con le donne, e io le invito a risolverlo, ma non in televisione da un'ora. Basta. una nullità assoluta, una nullità assoluta. Vabbè, questo Sgarbi contro l'Apicerno questa mattina. Però io voglio dirvi una cosa, ragazzi, ma si può sopportare l'idea che i vescovi italiani mettano bocca su Renzi, sull'articolo 18, potrebbe scoppiare una guerra, ci potrebbero scappare dei morti, danno insegnamenti, consigli a Renzi su cosa fare, i vescovi. Beh, l'hanno sempre vescovi, fatto, amico mio, eh? Sì, ma io la lasciamo. Sempre, i anche Berlusca, i vescovi fatto. Italiani in questo momento devono pensare ai pedofili dentro il Vaticano. Addirittura. Non rompessero le balle a Renzi e alla politica dicendo l'articolo 18, non l'articolo 18. Chi è che ha parlato oggi? Un tale che si chiama, io non conosco tutti questi. Questi porporati, no? Questi signori porporati. Sì. Un tale Galantino, che mi dicono sia uno abbastanza quotato nel Vaticano. Tale Galantino, articolo 18 non è centrale, ma devono stare zitti, muti! Penso che se si cambia un po' la prospettiva, il discorso articolo 18 sì, articolo 18 no, dico, diventa meno centrale rispetto a questo punto, perché ho l'impressione che ci siano troppe bandiere che sventolano e che fanno perdere di vista il dramma della gente che non sa più dove sbattere la testa. A parte che non si è capito nulla di quello che ha detto questo, ma comunque, insomma. No, allora, Vladimir Luxuria ha invitato per la conclusione del Gay Village. Dunque, sarà presente al Gay Village Francesca Pascale. Ma lei ha accettato, signor Pascale? Ha accettato, assolutamente. Ha detto anche che lei e Silvio sono trasgressivi. Senti, io e Silvio siamo trasgressivi. Porterà anche Dudu la signora lì o no? E come no? Ha detto pure che Dudu è gay, confermando quello che ci ha detto signor. Ma lo porta alla chiusura del. Ma questo non lo so, che ne so io adesso, mica sto a casa a Berlusconi. Ma insomma, la tua coppia un po' con Silvio la consideri un po', non dico trasgressiva, ma un po' giudicata, a volte un po' di pregiudizi, no? Vladimir la giudico completamente trasgressiva. 50 anni di differenza, se non è trasgressivo questo. Mi sembra strano, no? Vabbè, faremo riascoltare quello che ha detto la Pascale più avanti. Ha detto anche che al Gay Village vorrebbero Berlusconi e la Biancofiore, ma noi abbiamo appunto Michela Biancofiore con noi. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Michael Whiteflower. Al Gay Village, insomma, non ci ho mai messo piede, potrebbe essere un'occasione. Bene, bada anche lei, bada anche lei per la conclusione, domani, domenica. No, ma non è proprio come dire il suo ambiente ideale. No, il mio ambiente ideale direi che non è proprio il posto dove vorrei trascorrere la mia domenica, però insomma magari. Non è il posto ideale per lei. Diciamo che lei non ha proprio nell'immaginario dei gay, non è proprio al primo posto lei, cioè non le vogliono bene, non le vogliono bene. Perché non sanno leggere quello che dico, questo è tutto qua il problema. Io sono una liberale, quindi figuriamoci, ognuno può fare quello che vuole, assolutamente. E perché ce l'hanno con lei? Ah, perché lei disse quella volta che si ghettizzano. Mi dispiace che si autoghettizzano. Poi ovviamente è stato mandato un polverone ad hoc per farmi togliere le deleghe, perché io dovevo essere. Sì, me lo ricordo, sì. Governo Letta, perché ero l'unica anima a Berlusconi. Coniana, cosa che ha fatto poi 6 mesi ecco dopo, ma l'esistenza del Gay Village Bianco non è poi la dimostrazione della ghettizzazione? Esattamente, è bravissimo, è esatto, come anche il Gay Pride, perché io non faccio un etero Pride, sì. Ma io non vado in giro con un cartello con soprascritto etero, ma se è una festa falla la festa, ma insomma il problema non è fare le feste le puoi fare anche in privato, anche perché di feste ne avete fatte anche voi in passato, no, diciamo, giustamente voi dite se fanno la festa dell'unità possono fare anche il gay, esatto, appunto. Esatto, lei dice come la festa azzurra, una cosa permanente, ma è uguale alla festa azzurra, perché lei alla dice fine. Lei dice una dimostrazione di ghettizzazione, perché uno perché deve fare il Gay Village? Ma perché fai il Gay Village? Uno va a una festa, esatto. E se sei etero, se sei gay, per me non fa, cioè voglio dire, cioè, non esiste umano, l'etero, non mi fa la differenza, certo, non capito? Esiste l'etero village, lei dice, no, non esiste, no, non esiste l'etero village, perché non vado in giro a dire, a far vedere che io vado a spasso con uno che ha il gingillo di fuori o la gingilla di fuori, insomma spesso e volentieri ai Gay Pride vedi queste cose. Gingillo e la gingilla. Vabbè, non ho mai sentito, cioè, la gingilla, sono degli spettacoli, dai, quando fanno i carri su al Gay Pride ci si vedono. Vabbè, delle cose, le piume, no? Le piume, sì, però non è che c'è gente come le chiappe in faccia, su, non diciamo sciocchezze, cioè lei non li consentirebbe, i Gay Pride non li consentirebbe. No, no, non è che non li consentirei, non li trovo intelligenti, tutto qua, non vedo motivo per cui. Cioè, se lei fosse sindaco di una città, se lei fosse, sì, se lei fosse sindaco di una città, lo farebbe fare il gay pride o no? Lo farei fare perché sono una liberale, l'ho detto, insomma, ecco, lo ridico, la finalmente. Faccio fare perché sono una liberale, se uno mi chiede di fare una festa pacifica, per quale motivo non dovrei farla fare? Scusi, ma però la Pascal ha detto una cosa interessante, che Dudu è gay, ma qui si ribalta tutto. No, cioè, io non sono, no, quando è che l'ha detta questa cosa? Adesso glielo faccio sentire, guardi, glielo faccio sentire. Oggi, stamattina da Luxuria, ospite di una trasmissione meravigliosa radiofonica di Vladimir Luxuria, sentiamo. Senti, Dudu non lo porti però, vero? Ma pure Dudu, no, ma poverino. No, perché poi vuole mettersi il body fruits e non nel caso. Ma è un po' gay questo Dudu, certo. Me sa, Stiamo finendo male questa intervista, non so. Ma guarda, esistono, i cagnolini gay esistono, ma dai, ne conoscevo uno, ti giuro. Secondo me esistono, però... Allora, capito Biancofiore? No, ma guarda, si sbaglia Francesca, perché non si ricorda di quando ci provava Dudu spudoratamente con Paghi, quindi adesso poi c'ha pure una fidanzata, gliel'hanno comprata apposta, Dudina, quindi... Ma evidentemente, così... ragazzi, evidentemente non... Gli piace la materia. No, ma vi assicuro, lo posso testimoniare io, che vabbè, con la mia paghina, e sarà una questione di amore, evidentemente, perché evidentemente... Ma con la paghina lei non li ha... L'amore. Ma non li ha visti copulare, però, scusi. No, però l'ho visto che la cercava di come dire... Di ingropparsela, dico io, di ingropparsela. No, beh, avrà sbagliato. No, di avere un rapporto con la piccolina. Vabbè, comunque, secondo la proprietaria è gay, lo disse anche Signorini qui da noi una volta, Alfonso Signorini. Ci sono ormai conferme. Lei smentisce, non è gay. Beh, io smentisco spudoratamente perché ho visto come inseguiva la mia paghina, ma lo sa anche Francesca, quindi ma perché ha messo il basco del Che Guevara a Paghi una volta? Ho visto perché una foto. Era fantastica, perché eravamo a Cuba in vacanza e ci stava bene, no? Che era andata a fare a Cuba foto. Lei in vacanza? Lei, la liberale Biancofiore a Cuba in vacanza. Ci vado spesso a Cuba, ci sono stata almeno 4-5 volte. Ci sono uomini ci sono uomini bellissimi. No, non per gli uomini, ci sono stata con mia cugina, quindi figuriamoci. Beh, no, sono stata, sì, ci sono uomini bellissimi, non sulle spiagge, ahimè. A parte perché? Qualche bagnino che c'ha però 20 anni e io non sono pedofila e neanche insomma. Vabbè, 20 anni, non mi piacciono i toy boy. Anzi, non le piace la carne giovane, no, perché si sono avvicinati, onorevole. Tendenzialmente i cruciani sono come lei, cioè nel senso che ho la tendenza a innamorarmi dei vecchi, insomma, quantomeno di quelli un po' più grandi di me, diciamo, abbondantemente. Circolano molte voci su di lei, signora Biancofiore, su lei le fanno la corte molti uomini, tutti effettivamente mi dicono age. Cioè cosa vuol dire age? 60? Age. Ci sono anche i miei coetanei, per mia fortuna. Però insomma, lei preferisce però... over 60? No, quello è stato un caso raro, no, non li preferisco, appena come dire accantonato un over 60 che valeva tanto oro quanto pesa, però addirittura. Non ma perché lei si avvicinano tutta gente con i soldi, ma in idraulico, un cameriere, un metal meccanico? No, non ho detto che c'aveva i soldi, assolutamente, ho detto valeva tanto oro quanto pesa. Ah, per la personalità, tanto oro, sì, quanto certo. Pesa per, assolutamente. No, anche per il decoro, anche per la cultura, per tante cose, era un uomo di grande cultura, ma allora comunque lei era troppo più grande di me. Come lei è single? Sì, sono single. Mamma mia, che ma perché? Allora, io non capisco molto, una donna così è una cosa pazzesca. Glielo spiego subito, perché purtroppo io sono una che si deve innamorare e quindi siccome non mi accompagna, non faccio avventure, quindi avventure niente, non è come me purtroppo, vabbè. Traffico, torniamo subito. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico. No. Siamo qui con la donna dagli amori impossibili alla Zanzara, la persona che, lei si è anche definita così nel suo libro Il cuore oltre gli ostacoli. C'è scritto un libro, appunto. Ma io dico il vero motivo per cui, però non c'è solo questo, evidentemente lei pretende troppo, cioè il fatto che lei sia single. L'ultimo amore che ha avuto, quanto è durato? L'ultimo amore che ho avuto è durato un anno e mezzo. Un anno e mezzo? Poco alla fine. Quanti anni aveva? Era fino a 7 mesi fa, 8 mesi fa, non mi ricordo. A lui quanti anni aveva? Nel libro c'è il grande amore della mia vita, che è stata una storia durata 5 anni. Ma secondo me il suo vero amore è Berlusconi. Il suo amore nascosto è Berlusconi. Cioè il suo vero amore. Vi assicuro ragazzi che proprio no. cioè non è il suo tipo. Da quel punto di vista non mi ha mai interessato e io non sono mai interessata a lui. No, ma questa cosa qua, Berlusconi non l'attira dal punto di vista sessuale, amoroso, no, eccetera, niente, no, niente. No, affettivo tanto, amoroso proprio. Amoroso no, ma perché non è il suo tipo, che c'è, cioè, basso. Ma non l'ho mai visto come un uomo da frequentare da altri punti di vista, insomma. L'ho sempre visto come un mito, ero bambina quando lo inseguivo, l'ho scritto nel libro. Un mito assoluto. Avevo 6 anni, lo vedevo come un mito, insomma, ma non certo come l'uomo, avevo 6 anni, ribadisco, come l'uomo. Ecco, ma che tipo di mito è, secondo lei? Che tipo di mito è? Un mito che va oltre il tempo, un mito che resterà... Un mito che ci consegna, la cui verità ce la consegnerà la storia. La storia, questo sì. Certo, una persona sì. Che io ho scritto nel mio libro che non ci si pensa mai, ma la sua persona sì. È intrecciata anima, sangue e suolo a questo paese. È sì. Che lui, il mio libro parla proprio di 40 anni di... Ma cosa merita, cosa merita, secondo lei? Merita il Quirinale, io lo dico sempre. Ma oltre il Quirinale, merita, che ne so, cioè l'intitolazione di piazze, di strade, che ne so, cioè... Quello speriamo il più tardi possibile. Vabbè, perché di solito sì. Si fa solo dopo la morte, no? Io dico quello potrebbe no. Anche aiutare il Papa. Di più, ragazzi, ci arriverà al Quirinale. Al Quirinale potrebbe aiutare arriverà. Il Papa, se mai sì, potrebbe aiutare io il Papa. Farò la mia parte perché arrivi al Quirinale, ve lo posso assicurare. Questo certo, ma sì, forse... ma mi sembra difficile, mi sembra difficile. Potrebbe aiutare il Papa vabbè, in questa fase difficile, signora. Nella vita di Berlusconi tutto era difficile, sempre è stato tutto difficile, tutto era gli decretavano che era tutto impossibile. Allora, lei ha mandato il suo libro al Papa. È successa una cosa, il Papa l'ha chiamata perché ha ricevuto questo libro. La telefonata è questa. Signora Biancofiore? Ecco. No, sono Papa Francesco, signora. Sì, buonasera. Io desideravo ringraziarla per il suo grazie. Libro, per il suo pensiero. Mi fa proprio piacere conoscerla, padre, perché veramente ho scritto delle cose che penso fino in fondo al cuore nel mio libro. Grazie, padre. Mi piacerebbe veramente discorrere con lei su tante cose di questa vita, insomma, molto mi particolare. Mi farà piacere incontrarla a Santa Marta. Io... Mi piacerebbe tanto, padre. Io vorrei una politica senza corruzione. Sono d'accordo. E questo è il problema, avere fedeltà e assolutamente avere ancora fiducia nell'uomo è difficile, perché la politica viaggia sulle gambe degli uomini, questo è il problema. Lei ha detto una cosa esatta, ma perché c'è tanta corruzione nella politica? Perché purtroppo la politica è potere e la potere porta i soldi. Mio caro Papa, come si chiama il Papa? Io mi chiedo scusa, ma come si chiama il Papa in confidenza, Papa Francesco? È molto molto simpatica e gentile, signora. Va bene, signora Biancofiore. Santo Padre, io l'abbraccio forte, come le ho detto, spero che non sia uno scherzo, perché anche no, questo signora, in politica ormai... La farò chiamare della segreteria vaticana per un appuntamento. Tanto. Appena conto questo tanto, è possibile. Santo Padre, tanto ci conto. Un abbraccio forte e si mantenga sempre così. Grazie Santo Grazie, Padre. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. Allora, questa era una sintesi di 10 minuti di conversazione con la onorevole. Un abbraccio forte, lo diciamo noi, un abbraccio forte, signora Biancofiore. Ma io sono così, sono spontanea. Allora, dobbiamo dare dobbiamo dare la linea al giornale radio. Se lei ha 5 minuti dopo ci torniamo. So che è una visita, però magari 5 minuti riusciamo a ritagliarli. Giornale radio. Settimana complicata, caro Parenzo. Beh, dobbiamo ricordare una cosa, che sabato scorso questa trasmissione per il quarto anno di fila, lo faccio vedere qui alle telecamere, sì, non lo vedo. della webcam. Questa trasmissione per il quarto anno di fila, ma lo annuncio urbi e torbi alla radio, i nostri ascoltatori già lo sanno, ha vinto le cuffie d'oro a Trieste. Non è la prima volta, noi siamo sempre contenti di vincere i premi non si rifiutano mai, però questa trasmissione, devo ringraziare per queste cuffie d'oro una serie di persone, perché lo devo fare per forza. Devo ringraziare fare due punti senza ordine, così ho scritto a caso. Riccardo sì. Poli, applausi. Dove sono? Sta a casa oggi, si è preso un giorno di vacanza. Signor Poli, signor Poli. Laura Marchesi. Riccardo Buccero. Buccero? Che si chiamano tutti Riccardo quelli che vengono? Signor Buccero. Andro Mercu. Beh, signor Mercu. Ma si dice Mercu, Mercu, Mercu, scusa, no? Fa un po' sotto quando fa gli scherzi, però poi alla fine lo convinco io. Guarda, Androne, che detto Android. Non andiamo in galera, gli dico, non andiamo in galera. In non redazione ti preoccupare. Lo chiamiamo Android. Lo rassicuro, però non sono Android. Convinto nemmeno io in realtà. No, infatti, esatto. Valeria Bernardi, arrestato. Anche lei, applausi, applausi. Ragazzi, abbiamo vinto, magari prima o poi non vinceremo più, non è che si può vincere ogni anno, sennò è una buffonata. Dai. Come? Ma che dici? Oh, ma io ci siamo persi questa settimana la Minetti, la Minetti che ha detto che la mia vita è una botta e via. Sai che vuole riaprire, non so dove, a Roma. No, un Napoli. Centro. No, a centro Milano, dentistico, mi pare. No, che a Milano, ma non sai niente. La Minetti, una botta e via, a la Roma. Storia della mia vita, senti. Hai fatto una botta e via? Sì, tante. La storia della mia vita. Una botta e via la Minetti, spettacolare, spettacolare. Mi farei dare una botta da Berlusconi e da Obama. Certo che, vabbè. Daresti una bottarella a George Clooney? Sì. Raul Bova? No. Gabriel Garco? No. Matteo Renzi? No. Silvio Berlusconi? Sì. Beppe Grillo? No. Barack Obama? Sì. Una bottarella da Barack Obama, dai. Sì. Su. Dai, su. Di cosette sul sindaco di Napoli De Magistris. Qualcuno ci ha accusato ieri. No, ma non potete dire che si deve dimettere. Non possiamo dire che si deve dimettere. Cioè, ma è uno di quelli che ha fatto nella sua storia politica gli attacchi più spregiudicati a quelli che erano non solo condannati in primo grado, al di là della legge Severino, dirà adesso Parenzo, attento a questi formalismi, giustamente. No. La legge Severino probabilmente lo obbligherà a dimettersi, ma al di là di questo, uno che ha fatto nella sua vita pubblica degli attacchi forsennati a quelli che erano non solo condannati in primo grado, sì, ma anche indagati, ha costruito una carriera politica. Si deve dimettere ieri, non adesso, ieri. Eppure adesso che cosa fa? Lui attacca i magistrati, cioè sembra, ma non Berlusconi di più, cioè Berlusconi, certi toni che ha usato oggi De Magistris, ieri e oggi, contro i magistrati che lo hanno condannato, non l'aveva mai usati Berlusconi, diciamo la verità. Ha detto anche delle cose pesanti sui magistrati, ma quel tono, se ne devono andare. Cos'è che ha detto? Fatemi riprendere qua, mandatemi una roba. Innanzitutto dice che non si dimette. Mi difenderò in tutte le sedi, non mi dimetto perché non c'è nessuna ragione, anzi sono ancora più forte dentro di me, nonostante la rabbia e la sofferenza, perché penso che insomma mi vogliono far pagare un prezzo altissimo semplicemente per essermi messo contro un sistema. Un sistema! Cioè un sindaco parla di sistema, mi sono messo contro un sistema. Ma quale sistema? Dov'è il sistema? Non è stato provato che esisteva questo sistema. De Magistris, basta! I giudici si devono vergognare, si sente male perché era in aula al Consiglio Comunale, però i giudici si devono vergognare e dimettere. Berlusconi al confronto era un agnellino. Qualcuno mi chiede che io mi dovrei dimettere perché una sentenza di questo tipo mi ha condannato. Io credo che guardandosi allo specchio e provando vergogna, poi i giudici di quel tribunale si dovrebbero dimettere. Ma abbiamo ancora con noi Michela Biancofiore, eccoci qui. Eccoci. Allora, ditemi tutto. Allora io sembravo una mongospastica, lì col papa. Così, perché col papa. Ah. Veramente. Allora, sì, innanzitutto diciamo una cosa. Che una bambina di 2 anni. Vabbè, ma è normale. Allora, diciamo una cosa, che Michela Biancofiore ci ha autorizzato a mandare in onda questo scherzo, come meno ha fatto male. Berlusconi ieri, perché gli scherzi, anche se uno viene un po' ridicolizzato, in questo caso è evidente, uno è emozionato lì, come devo chiamare il papa, come devo chiamare il papa, può uscire un po' così. Però ci ha autorizzato, perché gli scherzi sono gli scherzi radiofonici. La privacy, che ha una marea di casi di cui occuparsi, gravissimi, di violazione di privacy, deve rompere i coglioni a noi, capito? Questa è la follia. Cioè, dopo una... perché non siamo un paese libero. Ma una cosa assurda, semplicemente per il caso Barca ci viene a rompere le scatole a noi la privacy. Beh, è uscito particolarmente bene. Sì, d'accordo, per carità. Il nome, non è la persona. No, come non è il nome, è la persona. E quando tocchi la sinistra, diciamo la verità. Questo è il punto, dai, su. Bravo, bravissimo. Questo l'hai detto meglio di me. Su, io sono molto più estremista di lei in alcuni casi. Che tutto dire, cioè, quando si toccano certe persone di sinistra, ma soprattutto amici degli amici, intervengono subito i carri armati, in questo caso. Ovviamente. Ma questi la storia non la possono fermare, perché gli scherzi telefonici, radiofonici, appartengono alla tradizione della radio. Bisogna risalire addirittura a Orson Welles. cioè, ma di che stiamo parlando? Quello dai. Che mi dispiace è che non era il Papa vero, questo mi dispiace sul serio. Beh, io sono magari la chiamerà, magari la chiamerà. Ma me il Papa. Lo auguro tanto, mi piacerebbe tanto fare quattro però non gli dica l'abbraccio fortissimo così. Perché l'abbraccio fortissimo. Ma se lei fosse di fronte al Papa, ma cosa farebbe? Papa, questo Papa è proprio tipo un papà, capito? Meglio di Berlusconi, è meglio di Berlusconi. Vabbè, completamente diverso, diciamo che. Cioè lei se dovesse scegliere chi per certi no, versi. Però voglio dire, no, lei in questo momento in chi ha più fiducia, in Berlusconi o nel Papa? Come punto di riferimento, chi ha, Berlusconi o il Papa? Sono due cose diverse, per l'interiorità e per la fede il Papa, per la politica e per la vita Berlusconi. Vabbè, per forza. Per forza. Scusi, scusi un attimo, le voglio chiedere alcune cose. Non sono paragonabili. No, cioè, alcune ma dov'è Pugghi che non si sente un silenzio? Vabbè, tombale. Ma mica ce l'ha sempre dietro. No, ho appena finito di abbaiare, per la verità. Ma è lì, vedi? Le mie attenzioni. Sì, è sempre vicino a me. No, vabbè, finisci. No, non è lei, no. Non abbaia così. Non tenero, molto femminile, sì, molto femminile. Ma che abbaia? Ma no, abbaia femminile. Ma scusi, sì, volevo chiedere una cosa, però delle risposte molto veloci perché dobbiamo chiudere, poi l'onorevole Biancofiore ha una visita. Allora, ma siccome Parenzo è d'accordo sulle multe ai clienti delle prostitute, sì, secondo lei un uomo che va a prostitute, sì, che cos'è? Un poveretto. È un uomo che non ha capacità di conquistare una donna. Vabbè, ho capito, sì, ma ci sono delle... Ma scusi, lei la prostituzione non la legalizzerebbe? Io sì la legalizzerei perché purtroppo è il mestiere più antico del mondo, l'ho detto ieri. Però... anche a vostro eccetera. Però detto questo, mi sembra che l'uomo che va a prostitute, cioè dovrebbe essere appunto sanzionato l'uomo perché comunque... Cioè giusta la multa, giusta la multa. Ma sì, certo, perché è lui che alimenta questo mercato della prostituzione. A me fa pena un uomo che deve pagare una donna per andare... Però scusi, io sono andato una volta, lo ripeto per l'ennesima volta, in Svizzera, in un bordello, per divertirmi. Ma è diverso quello. Ma non è diverso, ma non io non ghettizzo. Chi si ferma con la macchina sulla strada? Ma ci sono delle persone che si fermano con la macchina sulla strada e che hanno il seggiolino con il bambino dentro. Ma cioè, vabbè, questo è un'altra cosa. No, ma che? Cioè, ma non si è mai vista questa cosa qua? Non è Biancofiore. Pieno, guardi, col bambino dietro. Col seggiolone, non so, a volte che facile anche col bambino dietro sono capaci. Ma no, ci sono genitori che dimenticano i bambini dentro le macchine e che muoiono arsi vivi perché si dimenticano di andare vanno a lavorare. Ma mica vanno a mignotte. Col seggiolone, cioè nel senso che sono padri di famiglia che si fermano a prostitute anche perché poi vabbè, qua comunque lei è d'accordo con Parenzo mi preoccuperei l'altro giorno adesso ripenso alla mia posizione però... le prostitute in mezzo alla strada voglio dire quindi è meglio vabbè, tanto gli uomini sono colpevoli ma lei cosa pensa colpevoli, ma soprattutto sono poveretti cioè nel senso mi fanno pena un uomo che deve pena, ma uno se c'ha voglia se uno non c'ha le donne c'ha voglia che deve fare perché oggi come oggi non è facile conquistare una donna eh no evidentemente ci sono degli uomini che non possono c'è una massa di sfigati in giro, diciamo le cose come stanno, no? Una massa di sfigati che non hanno, chi non ha le possibilità perché non ha magari particolarità vedente e chi non ce le ha caratterialmente. Però scusi, c'è un altro discorso da fare, a parte la massa di sfigati, ci sono persone che per esempio, anche se sono sposati e hanno donne eccetera, gli piace proprio l'idea di andare a puttane, cioè proprio di pagare. Cioè pensa te, sembra una cosa normale, cioè allora vabbè, vuoi ma ci sono... l'amante, farti l'amante, ma ci sono tante perversioni nella vita, donna, no? Ci sono tante perversioni. Non è che andiamo a pagarci il gigolò se non abbiamo qualcosa. Ci sono persone che lo fanno. Ma io la vedo molto difficile. Lei molto non paga. Guarda, che è raro, ma è pieno di gente che si paga perché paga i gigolò uomini. Ma sta scherzando? Cioè che paga uomini per... Cioè, mi riesce difficile crederlo, però può darsi che si ma no, ma le guardo, le indico no, dei posti. Ma delle, fa l'elenco? No, delle persone, dei luoghi anche in Italia dove uno dei lo so che ci sono, questi qua anche su internet e via discorrendo, però che una donna però ci vada, boh. Senta, ma il saluto romano è un reato? Secondo lei è giusto che sia reato il saluto romano? No, non mi interessa, cioè non mi rileva minimamente, non vedo per quale motivo debba essere un reato, francamente. È la Cassazione, io sono d'accordo con lei. Perché su è apologia di fascismo, cara. Ma apologia di fascismo, perché uno alza il braccio su via, apologia del fascismo. Beh, cos'è? Ma ha ragione la Biancofiore su questo. No, tutta per carità, ma che cos'è, scusi? Se, cos'è? Ha ragione, non è reato, è una cosa... È una ripetizione di un periodo storico che non esiste va più, consegnato dai. Al passato e che non esiste più. Guardi che in Germania che hanno avuto il nazismo. Chi se ne frega? È un reato. Dovrebbero non avere certi comportamenti talvolta. Vabbè, un'altra cosa che dobbiamo chiudere. Secondo lei, un uomo che va a transessuali, che cos'è? Malato pure lui? No, lì è una cosa diversa. Allora, intanto uno mi deve un po' spiegare che cos'è un transessuale, perché lì voglio dire, che cos'è un transessuale? Non nel senso che non so che cosa sia un transessuale, cioè è uomo o donna? Allora, un uomo che è un uomo, se ha una tendenza gay, allora... Beh, è uno che nasce col corpo da uomo, ma in realtà ha delle tendenze da donna. Ma che è contro natura, secondo lei, un transessuale? Beh, transessuale oggettivamente sì, su via. Cioè, luxuria è contro natura, luxuria è contro natura. Luxuria voleva fare l'operazione, poi non l'ha più fatta. È una donna, però voglio dire, se però viene attratto il transessuale, l'attrazione è che invece è una donna che c'ha il gingillo, francamente a me tanto normale non mi sembra. Ma cos'è sto gingillo? Io non capisco. È il pisello. Il gingillo è la gingilla. Non mi piace perché mi sembra più educato, più carino. No, ma infatti si capisce bene, va benissimo, educatissimo, educatissimo. Ma la gingilla non l'avevo mai sentita. No, la gingilla la si dice in un altro modo, quella, la patatina. No, io lo dico così, mi piace. Ma è bene, gingillo, ma mi va, sta benissimo. È molto più fine, molto più bene, è bello, è bello. Il gingillo, no, francamente, se uno è gay vada con l'uomo o con la donna, se uno è etero vada con l'uomo o con la donna. Però esistono pure, che una roba mista mi sembra un po' strano, anche perché no, non ho capito, è natura la roba mista, è una cosa artificiale. Ho capito, quello che uno si può operare. Voglio dire, sì, si operino, allora io se luxuria si opera sono felicissima. E se non si opera, che se non si opera? Poveraccia, rimanga come vuole, non è il problema, non è che ognuno fa la scelta. Ma perché poveraccia, vuole, è felice magari di essere così? No, no, io so che io avevo letto che voleva operarsi. Vabbè, so, ma magari è felice di essere così. Ma francamente, io non voglio interessarmi della vita privata di Luxuria. Francamente, lei faccia quello che voglia. Ma è felicissima, però è felicissima. Sì, ecco, c'è da chiedersi perché, insomma, so che lei lo ha detto tante volte che, anche che voleva operarsi, detto sì, che ovunque, eccetera, eccetera. No, che era molto gettonata, l'ha detto spesso e volentieri. E quello no? Che vuol dire? Ah, dice che trasforma questa cosa in un business. Probabilmente una cosa mezza e mezza è probabilmente, come si diceva prima, trasgressivo e quindi attraente. Ma se mi dite che sia normale, trasforma in questa cosa, lei dice, anche in una professione, no? Si può trasformare il fatto di essere transessuali. E non lo voglio nemmeno dire, insomma, questo lasciamo. Però lo pensa, diciamo. Eventualmente. No, sono sono cose che mi appartengono molto poco, insomma, trovo. Comunque gli ermafroditi sono uomo e donna, esistono in natura, Un abbraccio. Sì, qualche uno è vero che esiste, però insomma, è un raro esempio cromosomico, ma insomma, quelli di cui stiamo parlando, i transessuali, quelli che conosciamo, sì. Sono gente che si fa fare il seno rifatto e poi c'ha il gingillo, oppure gente che invece il gingillo è stupendo. Gingilla oppure stupendo. Invece ci sono anche persone che si fanno fare le operazioni, che credo sia una cosa tra l'altro dolorosissima. Assolutamente, devo chiudere, devo chiudere, un abbraccio. La comprensione è quelli che si sentono, sì, uomini, assolutamente. Che sono col corpo da donna o viceversa. Un abbraccio, carità. ciao, arrivederci, presto. Ciao, ciao, arrivederci, ciao. Spettacolare, spettacolare. Ascoltatori, Loretta Rimini, anzi prima Giuseppe, provincia di Chieti. Intanto avvertite razzi, Corea del Nord, Kim Jong-un scomparso, è malato. Il leader nordcoreano non si fa vedere in pubblico dal 3 settembre scorso. Chiamate razzi, mandatelo subito in Corea. Da quando è arrivato razzi praticamente, da quando è partito. No, Giuseppe, provincia di Chieti, vai. Buonasera. Oh, è arrivato il matto. Vai. Ah, eccolo, sì. È arrivato il matto. È arrivato il matto. Il primo. È arrivato il matto. Il primo. Dai, su. Stasera sono molto bravo con lei. Molto bravo. Devo dire che lei è bravissimo. Ha riniziato la trasmissione. Ucciso Cruciani. Alla grande. Vabbè, dai, forza. Giuseppe, vai avanti. Lei sa perché è bravo? Perché lei è fedele. Ma non me ne frega. Ai suoi principi. Quali sarebbero i principi? Droga e rock and roll. Ma veramente ancora? Guardi, non mi sei mai drogato in vita sua. Non mi sono mai drogato. C'ha tanti difetti su Cruciani, ma quello no. Cruciani, mo la detto una vera balla. Dai, un po' di canne, insomma. La, ma mai, non mi... ma quello no, no, ma non sono... dire bugie, Cruciani, non dica bugie. Non dire bugie, non dico bugie. Allora, sì, ha detto, bugie. Come si chiama questo? Allora, mi hanno detto che a Pescara l'hanno visto, mo, questa è stata la grande, sì, la Montesilvano, no? Sì. Frequentava, lei lo sa, no? La frequentavo, zona era a casa mia, comunque, vabbè, sciolo. Allora, matto, ha preso qualcosa. Allora, Cruciani, allora... Sesso, droga e rock, ha cominciato alla grande la nuova trasmissione, sì, cioè le nuove trasmissioni, alla grande proprio, cioè ci mancava il rock, no? Ha preso qualcosa di buonissimo, mamma che ride stasera. Mia, ma tu ti sei drogato stasera, no, Giuseppe, ti sei drogato? Cruciani, Cruciani, dai, dica la verità, cosa? Quante volte ci è andato stasera da Montesilvano? Ma cosa, di che stai parlando? L'hanno visto con Razzi. Ma scusa, l'ha detto, allora, non è Giuseppe, che ma per quale cazzo di motivo hai chiamato? No, vorrei capire, per quale motivo hai chiamato? No. Perché è solo. Sei un uomo solo, sei un uomo solo. Per complimentare con lei, che lei è bravissima e fedele ai suoi principi. Vabbè, questo l'hai già detto, hai solo questo da dire? Ma è solo questo per stasera. Vabbè, allora va a casa, va. Loretta, Rimini. Che ride. Buonasera. Sì, dimmi, dimmi. Io ascoltavo prima la Biancofiore, sì, e un attimino mi si è alzato un po' la voglia di chiamare quando diceva che poveretti questi uomini che non sono in grado di conquistare una donna per cui la pagano. Sì, sì. Secondo me non è così tutto bianco e nero, perché nel mezzo ci sono tanti solchi. Io da donna qualcosa vorrei dire, nel senso che ci sono uomini che vanno per l'aspetto, magari gli piace la donna. Ci sono mille motivi, certo, certo. Ci sono tanti motivi. So per certo ci sono uomini che hanno anche difficoltà a spogliarsi, perché poi hanno dei difetti fisici. C'è l'ansia di prestazione, c'è questo sesso che... Vabbè, ma secondo lei perché vanno allora? Ah, no, ma i motivi sono tanti. No, ma me ne dica uno, perché ha chiamato? Sarà un motivo che lei ci vuole dire, no, o no? Ho chiamato perché non è possibile dire semplicemente che sono dei poveretti non in grado di... E questo lo dice Parenzo, che sono dei malvissuti. Mi ha detto che quello è del malvissuto. Sì, sì, certo, chi va... Anche chi... la signora Biancofiore in questo momento. Scusi, ma è possibile che non siano sessualmente appagati a casa anche? Anche, infatti, sì, volevo arrivare anche lì. Cioè? Io ho 55 anni, sono sposata da 32, credo che ci siano varie fasi. Quante volte lo fa lei? Con suo marito, quante volte lo fa a settimana? Di rado. Di rado, e suo marito allora va a puttane sicuro? No, se Dio vuole, perché ci amiamo molto ed è evoluta la faccenda. Adesso controlla, lo chiama subito al telefono. E che io faccio tutta teoria, poi in pratica non so se... Cioè, di rado che sia, a 55 anni dovrebbe essere attivo sessualmente. No, io ne ho 55, lui ne ha un po' di più. Ne ha un po' di più, ma funziona ancora suo marito, sì? Se Dio vuole, sì. Sì, ma allora quante volte lo fate? Una volta al mese? Una volta ogni due mesi? Una volta al mese, una volta al mese. Ma è normale, dopo quanti anni di matrimonio? Dopo 30? 32. Dopo 32 una volta al mese si fa, no? Beh, mica si sta lamentando la signora. Dai, qualcosa. Stando lì a lavorarci da ambo le parti. Lavorarci. Come a lavorarci? Vabbè, bisogna lavorarci, certo. Filmini porno, sex toys. Ma è normale. Ma è normale. È un gioco. È un gioco, ma... Si dimentica molto che è un gioco. Quali espedienti usa, cara signora? Signora, prego? Quali espedienti usa quando lei dice bisogna lavorarci? Userà? L'ironia, innanzitutto. Vabbè, l'ironia, bisogna... Che ci famo con l'ironia? Cioè, no, quello però. Tanto. Cioè, per lavorarci sopra, per rianimare suo marito. Ci ride sopra. Ecco. Che succede? Che su là, quando siete a letto, che succede, signora Loretta? Perché a letto poi per forza. Ah no, ma questo è vero, hai ragione, sul divano, in cucina. Dopo no, 32 infatti... anni il letto gli abbiamo fatto ormai la folla. Allora vedi che poi... Abbiamo fatto ormai? La colla. Ah, la folla. La buca. Ah, la buca. Letto. Vedi, simpatica. E dunque? E dunque, dai, non è che adesso non ma certo, deve entrare imbarazzo da bestia. Ma è lei che ha iniziato però, mica io. No, io ho iniziato con un altro taglio. Lei va sul personale, dopo diventa un po' difficile, anche perché io posso parlare per me, ma devo tirare in causa anche lui, Porastella, che è inconsapevole. Ma, scusa, ma lei mi ha detto in maniera molto semplice, molto spontanea, che lo fa di rado. Poi ha detto anche che succede che le persone vanno a prostitute, a puttane, cioè i mariti, o comunque gli uomini, perché a casa, insomma, nisba, anche, niente. È un aspetto anche quello. Allora io poi a un certo punto ho detto, scusi, lei sta parlando di un caso personale? Questo sta parlando... No. No, e vabbè, no. No, perché se Dio vuole, davvero in 32 anni il rapporto è evoluto. Vabbè, faccia una telefonata, però è meglio adesso. Non l'ha mai beccato, quando butta giù la cornetta con noi, faccia una telefonata di controllo. Loretta, ciao, grazie, ciao. Saluto, state bene. Ciao. Grazie, cara. Lui Luisa Ferrara. Pronto? Eccoci, buonasera. Pronto, buonasera a voi. Dica. Senta, prima di tutto vorrei farvi i complimenti per questo. Ma non ce ne frega niente, allora, Luisa, vada avanti. Ecco, cominciamo bene. Ecco. Però vorrei dire due parole, se mi permetti, con a Parenzo. Eccomi qua, sì. Cara Luisa, cara. Vai, veloce, ecco. Vai. Parenzo. Dimmi, cara. Mi sembri un bravo ragazzo, anche grazie, una certa Luisa. Cultura. Sì. Però... per come fai ad accettare tutte quelle parolacce, tutte le offese che ti dico? Ma cara, qui è una battaglia, qui ci si mette, ci si mette l'elmetto, cara. Ma alle volte che piglierai anche tanti soldi per fare questo ruolo di... Beh, se non esageriamo, sì, normale. Ma mai normale. Troppi. Ma avrà anche mai il suo peso. No. Lo so, prende un sacco di insulti alle volte di mi so, tocca, mi tocca battagliare, ma è che è così, è perché è la così, gente come lei sente... Ma un uomo di sinistra a volte raggiungi delle vette di autolegionismo... che sono veramente appiccati. Autolesionismo perché, sento, cara Luisa? Ma perché ieri sera io ho ascoltato non tutta la trasmissione, allora... ma a un certo punto, quando avete parlato del sindaco, dell'iniziativa del sindaco Credo di Napoli, sì, di sì, dare sì. 900 euro agli immigrati. No, ottimo. Marino a Roma, Marino, no, Ignazio, quello di Marino. Ah, vabbè, allora... sono un sindaco, allora... ho capito il mio... Allora, ma hai dimostrato che la cosa era bellissima. Ma che bellissima! Ottima, no? Andiamo oltre oggi, cosa bellissima, indice di grande fratellanza. Andiamo oltre, cara la mia Luisa, la signora educatissima Luisa, che parla così tranquillina. Oggi la notizia è oltre, perché devono andare anche i parioli gli immigrati. Cioè, Marino dice giustamente che gli immigranti non è che vanno messi nelle periferie, vanno messi nei quartieri chic delle città. Ma loro stessi non vogliono in Sardegna, si sono fatti capito? Devono rimanere nei centri località. Finché non viene deciso di rimandarli indietro. E se c'è qualche famiglia che li adotta, gli dai 30 euro a famiglia che se ne prende in carico. Il mercato degli immigrati facciamo adesso. Il calma, mercato calma, degli immigrati. Calma, calma, calma, non è questo fermi il tutti, punto. Fermi tutti, fermi tutti. È con noi la grande regina della televisione, ragazzi, perché qui non è che stiamo a pettinare le bambole. Ascolti pazzeschi. Viene attaccata, ma lei ogni volta che la attaccano per le trasmissioni che fa, per mille motivi, adesso non stiamo ricordati, si fa scivolare tutto addosso, perché secondo me il maggiore pregio di questa persona che adesso vi presento è proprio questo, cioè si fa scivolare, che la massacra ogni tanto sul web, spesso, perché poi la gente non è quella sul web, perché uno dice il web, non è il paese reale, quello è una combriccola, com'è che dicevano, non una combriccola, una consorteria, una conventicola, una conventicola, ma dai. Comunque, lei invece si fa scivolare tutto, è sempre imperturbo, non si arrabbia mai. Com'è possibile non arrabbiarsi? Io mi arrabbio sempre come una bestia. Barbara D'Urso è con noi. E le voilà! E voilà! Voilà! Ma chi siete lì, scusa? Io e David. Cruciani e Parenzo. E chi ci vuole essere? Scusa, cara. Uno figo, no? No, ma scusa, beh, adesso siamo qui. Allora, tu innanzitutto, scusa. Ti ha distrutto di già, Barbara, capito? Barbara, diciamo subito una cosa. Non ti vuole. Prima... Non ti vuole. Ma no, è inutile che tu mai... tutte le volte provi a baccagliare su Radus. No, dobbiamo smentire questa cosa. Dobbiamo smentire. Gusti diversi. Ogni tanto mi chiedono, Barbara, lo sai che mi chiedono ogni tanto? Ma veramente tu sei stato, perché ti ricordi quella copertina? Cioè, ma tu, io correttissimo, sempre molto corretto, dico, guarda, ti assicuro che fu una cosa. Non siamo mai stati, non siamo mai usciti soprattutto. Mai ma la cosa bellissima che la gente non sa è che quando quella copertina fatta con un fotomontaggio è uscita, io e lui non ci eravamo mai neanche conosciuti. Esatto, bravo, cioè, mai. Neanchissimo, mai, italiano, mai. Neanchissimo, mai. Mai. Vero, mai, quando poi ci siamo conosciuti, ci siamo guardati e abbiamo detto anche no. Vabbè, adesso questa è la notizia. Questo parla per te. Questa è una notizia. Primo parla per te. Anche no. Scusa, Cruciani, veramente. Ieri, come ben sai, poi ci siamo incontrati alla Zanzara. Cioè, la mia addetta stampa. Scusa, Tikitaka. E c'ho un'età come piacciono a te. C'ho un'età proprio come quelle che piacciono a te. E qui. Esatto, bravo. Hai detto bene. Mi leggeva qui sul divano una tua intervista dove veramente dici delle cose allucinanti. Perché sono una persona, non sono ipocrita, capito? Faccio un'intervista sul sesso e le... No, ma diciamo cosa hai detto, scusa. Ma adesso, sennò... No, diciamolo, David, è uscito. No, David, non si può dire. No, David, non si può. David! No, ma scusami. David, adesso c'è il sequel, c'è l'atto secondo, perché Dago Spia ha fatto Cafonal ciucciami l'alluce, c'è una speciale una inchiesta. Brutta, che cosa? Perché è brutta? Perché hai piedi brutti? Perché no, sei... No, No, insomma, me la cavo con i piedini. No, no, vero, no, vero, poi, no, una roba brutta l'intervista, delle cose che hai detto. Perché cioè, brava? No, perché brutta? No, perché è una roba bella, insomma, bella forte. Ma è da mal di su, bella forte, no, brutta, bella forte. Cruciani, hai vera ragione. Esatto. Bella forte come oh, Cruciani. No, non mi attaccare su questo, proprio tu. Sei, che, ti piacciono, le persone vere, no, le persone finte. Assolutamente, assolutamente sì. Infatti sto parlando della tua intervista perché alla fine mi ha fatto ridere. Certo, perché te la sono letta tutti, poi dice sì, però non si devono dire certe cose. Io ho detto semplicemente, ho parlato di una parte della mia vita sessuale, della mia vita sentimentale, punto e basta. Non ho fatto nessun nome, non ho detto due nomi, hai fatto sì, ma due, non ho detto insomma, particolari sì. su quelle cose lì, cose che non arcinote. Esatto, no, è stato un signore perché avrebbe potuto dire delle cose, non le ha dette. Esatto, brava, esatto. Scusa, ma io non so anche che tu hai proprio chiesto di non dire alcune cose. Brava, bravissima, ecco, bravissima. Confermo, allora, io voglio dire una cosa però, Barbara Duzzo, siccome passa dalla mattina alla sera no, indovina dove sono? Negli studi di Colonia Monzese, va bene. Nel camerino. Ma io dico, come si fa? Ma ce l'hai una vita privata? Non è possibile, stai dalla mattina alla sera in televisione ore, adesso domenica inizi pure domenica live, dobbiamo dirlo, domenica live. È domenica live, certo. Ma dico, sei sempre rinchiusa, la vita privata non ce l'hai. Un fidanzato, ma uno come fa a avvicinarsi a te? Tu la spiega adesso concretamente. No, scusa Cruciani, però adesso facciamo guarda, bravo, la zanzara è seguitissima. Sfatiamo un mito. Qual è? Sfatiamo questo mito. Allora, ne parlavamo anche quest'estate con David, quando siamo andati io e lui in giro in motoscafo con lui che guida meravigliosamente il motoscafo. Purtroppo non c'ero, esatto. Purtroppo rosicavi. Rosicavo, sì, è vero. Mi mandavi messaggini dicendo ti invidio che sei in barca con la D'Urso, mamma mia. Ci avrei provato tutta la vita, io ero in bikini, ti dico solo questo. Ma ci avrei provato la grandissima, guarda, te lo dico subito. Sì, ma non ho dubbi. David non ci ha provato per fortuna, anche perché ha una moglie fantastica, una compagna che io conosco, esatto. Quindi chiariamo anche questo. Che tesoro. E quindi, mentre eravamo là, anche con David dicevamo, ma la vita privata, sfatiamo questo mito, è vero, io lavoro molto. E dunque? Vabbè, questo che mi sfatare. E finisco la sera tardi, perfetto. Ma se ci fosse veramente un uomo che mi si avvicina e che ha il coraggio di avvicinarsi, ma stai tranquilla che il tempo lo trovo. Ah, per cui tu ti stai dicendo che però gli uomini hanno paura. Hanno paura. No, che per ora hanno paura di me. Hanno paura di te. Certo. Gli uomini hanno paura di me. Tu ci avresti provato, Cruciani. No, però è vero che no. Ma io adesso dico così, ho provato perché così come cosa... Perché sei seriale, no? Perché selezioni il talento, la bellezza. Perché sei fordista, sei sessualmente un fordista. Perché devi sempre offendermi? Perché mi devi offendere? Perché Cruciani sapeva benissimo che non avrebbe potuto provarci solo per avere un rapporto, chiamiamolo così, sessuale. Perché una botte via non l'hai mai fatta, non sai come l'hai. Ma che sei matto? Mai fatto una botte via? Ma dai, Cruciani. Perché? Ma che male c'è a fare una botte via? Scusa, spiegami adesso, non è che. Perché devi prendertelo con le donne che fanno una botte via. Tu sei liberale. Io me la sto prendendo. Io sto dicendo che loro fanno benissimo, che nella prossima vita io voglio rinascere così, purtroppo, e dico purtroppo. Non riesci a fare una botte via. No, purtroppo in questa vita sono nata così. Che se ho un incontro d'amore. Esatto, con un uomo, è perché proprio mi piace Mattista. Cioè, ma tu non sei mai uscita con uno e è andata a letto subito? È andata a letto subito? Giuro sui miei figli. Non allora, è possibile. Ascoltami, no, scusa, metti che allora facciamo una cosa: io e te andiamo a cena insieme, ok? Vabbè, è difficile, però. Perfetto, vabbè. Però può succedere. Ma non è vero, attimo, ti... perché... Vabbè, Cruciani, ok, veramente, facciamo. Simuliamo questa cosa. Una merda, no, è vero, simuliamo questa cosa. Ti corteggio e poi usciamo a cena fuori. Benissimo. È una cosa carina, gli uomini fanno così, Sì, vabbè, ma lui ti fa pagare il conto, però. Vabbè, andiamo a cena, mangia il salmone, il champagne, poi dice scusa, ho dimenticato il portafoglio. Scusa, Barbarella, ho dimenticato. Amico mio. Tu corteggi, vabbè, tu sei l'anticorteggiamento. Esatto, brava. Bravo. Comunque mettiamo che ti corteggio, dunque? Mettiamo che mi corteggio e quindi mi piace, eccetera. Mattizzi, dopo un po' di tempo scegliamo, decidiamo, mi piaci, quindi bacio, che è la cosa più bella, sì, è vero. La cosa più bella è il bacio, altro che andare a letto insieme. Bacio, quindi cioè, questa cosa pazzesca, che il bacio te lo ricordi, che dice Madonna, guarda come ha baciato. E poi la prima sera niente, Non lo so, ma dipende. Allora è vero che qualche volta hai fatto la prima sera? No, aspetta, è un momento, fammi arrivare al dunque, come corri? Corri così anche quando c'hai corro allora piano, le cose vanno gustate piano Cruciani, calmati. Dunque E qui dunque a un certo punto c'è questa cosa che uno fa l'amore, giusto? Sì, se sì. io faccio l'amore con te sì. è perché vuol dire che proprio mi piaci, ma mi piace, vabbè, mi piace, ma quello, mi piace, sì. ma mi piace, mi piace. E allora mi devi spiegare per quale motivo, se mi piaci, io la mattina dopo e non devo vederti più, e poi neanche il dopo dopo, però può succedere, poi dopo dopo. Però può succedere. No, non può succedere. Non può, con te non è mai successo. Ma no, perché poi ci sto male, ma perché ci devo stare vabbè, male? Succede che uno dice guarda, io volevo farmi una roba, volevo andare a letto. Allora no. Vabbè, allora no. Allora, ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con Barbara D'Urso che da domenica riconduce un'altra volta, mamma mia, sempre in televisione, Domenica Live, però è il numero uno, ragazzi, è il numero, non c'è niente da fare, con quella faccia lì, con quel modo di fare, è il numero uno in televisione, questa è la realtà, bisogna dirlo, Parenzo, noi siamo delle schiappe tremende. Dai. Sapete ragazzi dove vedrei io bene Parenzo questo fine settimana? Parenzo, perché non vai a rompere i coglioni a George Clooney là, al matrimonio di Clooney a Venezia? Ci avevo pensato. Dovresti sai. Andare lì a fare un bel servizio, ma proprio a fare andare il matto con un pedalò. Possiamo andare con un pedalò in laguna e dare l'assalto, e alla, l'assalto con un l'assalto metaforico, ovviamente. Dovresti andare ma là a fare rompere i coglioni, no a passare sabato e domenica in famiglia. Mi potrei far pagare il Cipriano. Io voglio capire, non so come si è sposata, se è mai sposata Barbara D'Urso, però ma tu ti sposeresti mai Barbara come si sposa Clooney a Venezia? Con quello sfarzo pazzesco. Beh, no, che c'entra, se uno può. No, ma come se uno può? No, troppo. Troppo, dai, no, troppo. No, ma ragazzi, troppo, ma perché siete pauperisti? No, se uno vabbè, può, che vi frega? Ma troppo. Vabbè, certo. Vabbè, però è una roba mediatica, è una roba. Ma di... avrà venduto il matrimonio, se lo sarà ripagato, giustamente. Figura, avrà venduto le foto a qualcuno e con quei soldi lì ha pagato il matrimonio. Un ma genio. Tu lo ma scusa, ma George Clooney non ha bisogno di vendersi le esclusive. C'è dai, sempre bisogno di soldi. Ma mica è un poveraccio come noi tre. Ma adesso poveraccio adesso. Noi però tu sei ricchissima, diciamo la verità. Sì, tu, ma senz'altro. Tu sei ricchissima. Guarda, quanto guadagni? Dillo. Ma pochissimo, credimi, ma è esattamente almeno 10 volte meno di quello che immaginate. Ma cioè, almeno, ma almeno mezzo milione lo guadagni tutto. No, neanche, no. Meno di mezzo milione, ma scusa, lavora tutti dentro. I giorni no, meno di mezzo milione ma vabbè, sono ma dai, ma manco mi ricordo, ma mo sei qua cosa? Comunque pago scusa, oltretutto pago tutto il mio fantastico 60-65% di tasse, tutte ma lavora 7 giorni su 7 e sette ne sono su super orgogliosissima. Beh, certo, questo è importante, importante. Hai avuto mai problemi finanza, problemi Equitalia? No, ringraziando Dio problemi... no, proprio zero. Guarda, ogni tanto fanno anche controlli come a tutti, è giusto, e ogni volta invece sono sempre, mi hanno detto complimenti, lei è brava. Ma vorresti avere Renzi con sua moglie ospiti? È bello. Ovvio, in due io tutti ho avuto e due. Già avuto Renzi. Renzi è l'unico dai. È l'unico cioè Renzi l'unico è andato, programma che ha scelto è lì effettivamente. Esatto, di andare fisicamente, poi andare anche al Signore del Debbio, però fisicamente. Beh, però è andato bello, Agnese ecco. E Renzi e poi Berlusca e la Pascale insieme, stupendo, un quartetto tutti e quattro. Guarda, a me studio, basterebbe anche solo Agnese, perché solo Agnese sì, a me piace molto, cioè i tuoi ospiti ideali del prossimo dei prossimi sì, mesi Agnese. No? Agnese Renzi Agnese. Ma quella quando ci viene, beh, Agnese è intrigante dai, è meglio della Boschi o no secondo te da un certo punto di vista? E perché le hai messe in contrapposizione? Beh, scusa, sono totalmente diverse. Beh, sai, guarda, hanno due ruoli diversi e sono completamente diverse. Una è la donna immagine di Renzi e l'altra è la moglie di Renzi, diciamo. Donna immagine nel senso come politico. Ma a me interessa, interessa Agnese, la famiglia, interessa, interessa il cuore, interessa la pancia, interessa la cosa, la moglie. Hai visto che la moglie che è sempre defilata. Meglio la moglie di Renzi, no. Renzi l'hai già fatto, però però lo rinviti. Sì. Matteo sì, anche perché mi ha promesso che Matteo, prima senti, di dicembre Matteo. Viene. Ah, prima di dicembre certo, viene. Ma Matteo, sì. in onda ci davamo del tuo. Matteo, ormai tu sei molto renziana, diciamo la verità, molto renziana. Ti io piace sono... molto, dai, ti piace molto, diciamolo, non c'è niente di male a dire che hai votato Renzi alle elezioni. Non c'è niente di strano. Ti piacerebbe fare questo lancetto all'Anza. D'Urso due punti. Vabbè, non stare a pensare all'Anza adesso, pensa di essere tra bello. Amici così. È mica nata ieri all'Anza. È nata ieri la tua stessa qua, mica beccata gratis. Vabbè, quindi però, possiamo diciamo, dirlo, no? Possiamo dirlo. Quindi possiamo dirlo, il no? mio politico ideale è Renzi, giusto? No. E chi è? Ci sarà non ho politici ideali, non ho il tempo di pensare alla politica. Sto vabbè, sto facendo, devo fare la prova costume in questo momento. Però Renzi è unico. Renzi è unico. Davanti ne devo scegliere uno. Cosa mi consigli? Quello di ieri davanti. Era brutto. Quello di ieri non perché brutto. Era azzurro, era bruttino. Sì, era bruttino. Tu eri in grande forma, però. Una gnocca pazzesca. Ma eri in grande forma, devo dire. Non mi dire che anche tu adesso no. Cosa? No, che ne so, cioè non ti piacciono più le donne tutte no, belle con le a me tette. Piacciono le donne di una certa età e dunque tu se rientri, rientri tranquillamente, purtroppo per te rientri tranquillamente, perché diciamo ti vai verso i 60, vai verso i 60, ma ti tieni benissimo, stai molto bene, dunque vabbè, però il vestito di ieri non mi piaceva. Veramente? E dimmi qual è il tuo vestito ideale. Devi stare, tu devi, testa, tu devi innanzitutto tu devi mettere un vestito leggero, capito? Quello era troppo leggero, deve essere un vestito leggero che poi lascia non dico ma non sentiamo un vestito leggero bianco, se molto in bianco sta molto bene, non in bianco, non è la cafonata, un leggero bianco tu sei molto bene in bianco un leggero bianco, come se ti dovessi sposare un po' da sposa sì. Di Clooney, certo, un po' da sposa, tu non ti sposeresti mai con Clooney, diciamo. Senti, ma tu il mio magazine lo leggi, l'hai letto? Okay, come perché David si sì, è anche fatto beh, la foto sì, infatti avevo ah, sì, com'è che si il chiama? Il chiama B Magazine, sono poche donne che sono riuscite a fare un magazine diciamo praticamente autocelebrativo. No, non è autocelebrativo, vedi? No, intitolato a se stessa, ma è bellissima questa cosa. Questa vabbè, come io nel mio piccolo sono un marchio. Io sono un'unghia del mignolo di Oprah Winfrey, lei ha fatto O, col mio mignolino ho fatto B magazine. Ti senti però la Oprah Winfrey italiana? Ma no, ma italiana, ho detto italiana. No, ma anche tu ieri sera hai fatto il Carmelita Smack, non ti vergogni un po'? No, assolutamente no. Ci sono molte persone che non lo fanno e si vergognano di farlo. Anche l'abbiamo fatto insieme a Fiorello alle cuffie d'oro, dedicandotelo. Abbiamo fatto il Carmelita Smack, è una cosa. Ognuno ha il suo marchio di fabbrica. Barbara D'Urso ha i suoi marchi di fabbrica che vengono ogni tanto derisi da quelli dagli snob, sì. Ma invece sono. Però sono virali. Fanno parte del suo. Aspetta, però Libero Quotidiano, Porno Cruciani, amo leccare i piedi e guardare le donne mentre vabbè mentre amico no. Mio siamo veramente capito, la perversione capito. Ma perché qual è il problema vostro? Non ho capito. No, è la parte cioè, quella dei piedi va bene secondo me. Vabbè, ma la resto... parte più malata però, malata che vabbè, non c'è un'altra io poi voglio scusa abbiamo la Durza adesso, non dobbiamo parlare sì, scusa. Io esatto, voglio vero, chiedere una dai. Cosa a Barbara sì. Questa cosa degli uomini, il tuo uomo ideale qual è? Chi è? Che ne so. Ma ci sarà un uomo ideale oppure tu non hai un prototipo? Cioè, no, ma non c'è l'uomo ideale, è una cazzata pazzesca. Bravo, ma sì. No, è uno che arrivi, che a un certo punto cammini, incontri questo e dici porca miseria, oh, ma che è? Hai capito? Cioè non c'è un prototipo, cioè, non è? Giri, vedi questo e fai... Però ma che? Però oh. Una certa età la devono avere, cioè non... come me, da questo punto di vista siamo uguali. Dai, non, tu con i ragazzini non ci vai, o sì? Guarda, io ho sposato uno che c'ha 12 anni meno di me, dipende anche da che capoccia c'hanno. Allora, dipende, Fedez, che è un cantante, rapper, che è uno nella giuria di, come si chiama, di X Factor, ha detto di te delle cose tremende. Non andrei mai dalla D'Urso a fare l'opinionista che dice la sua sull'omicidio di una ragazzina, non andrei mai a parlare di quanto sono belli i miei capelli o come i pori della mia pelle siano splendenti. Io vado a cantare, a raccontare quello che è il mio mondo. E pare che stia facendo una canzone, abbia scritto una canzone contro di te. Ma tu lo inviteresti? No, anche io non andrei mai in vacanza con Brad Pitt. Peccato che non me l'ha chiesto. Cioè, ho capito. No. Cioè, ma perché? Che... Scusa, rispondi un attimo a sto Fedez che dice così che non andrebbe mai. Dice chi ti ha chiesto di venire? Ti spiego. Queste cose nascono perché poi uno spera nella risposta, così poi i giornali, le cose continuano a parlare di questo. E poi scusa. Non te lo fili sto Fedez. Lo ignori. Ma va bene. Non l'ho non mai. Non andrebbe mai da te. Ma perché ce l'ha con te? Guarda, perché me ne farò una ragione. Quando penserò di invitarlo, penserò che lui non vuole venire. Facciamo così, va bene? Ma che invitarlo? Anticipaci qualcosa di domenica, dai, su chi c'è domenica? Ma no, la moglie, la madre di Ciro Esposito, già l'ha detto. E va bene, questo e poi, sì. Questo e si poi, sa, poi. C'è tutta la famiglia. Chi c'è? La famiglia di Totò Schillaci, per la prima volta, moglie, figli, bambini, nonni. Totò Schillaci è morto, è finito. Come dai. Morto? Ma perché c'è? Ma come perché ti permetti? Perché è morto? Ma sei matto? Ma no, ma è finito come giocatore. Ma che sporti sfiga sei un ma no, morto. Vestito di nero. Ma no, cioè, lui... un uomo orrendo. No, sono blu. Sei un uomo ma morto orrendo. Non è un personaggio, dai, su. Come no? Personaggio Totò Schillaci. Ma che stai ascolti, io non ci capisco niente. Ma che c'entra ascolti o non ascolti? Ma rispetto per chi ha fatto la storia del calcio. Ma stavo scherzando, diciamo. Non pensavo che fosse ancora su piazza come personaggio, invece sì. E che c'entra su piazza o non su piazza? Voglio raccontare la vita di uno. Ma tu scusa, non hai mai esultato? Contro lo Schillaci tantissimo, sì. E allora? Contro lo Schillaci tantissimo, sì. Allora? Assolutamente. Con quello sguardo, con quegli occhi. Ma la Bindi, quando ha detto che le ministre sono lì anche perché belle, ha preso una cantonata contro le donne oppure no? Non mi ricordo, ho detto non ti è piaciuta, ma non sai niente, mamma mia. Sei rinchiusa dentro gli studi, non segui le cose. Dai un ma voto. Certo che le seguo, ma stavamo parlando di Schillaci, ma mo che c'entra la Bindi? Io salto tra una cosa e l'altra, lo sai. Dai, cioè, tu. Comunque, vabbè, allora la Bindi. Comunque, durante la pubblicità, che veramente avete un pacco. Cioè, siete come le trasmissioni della D'Urso, piene di pubblicità. E meno male, insomma, meno male. Che fa? Chi ti ha scritto? Tu. No, come t'ho scritto io? Sì, dai, adesso fai finta di niente. Ma non è vero, non t'ho scritto. Hai scritto Passerotta? Ma dai, hai scritto Passerotta, andiamo a cena insieme. Ma guarda che hai veramente una non è ma sei proprio ipocrita. Cruciani, abbi il coraggio delle Passerotta. Tue azioni. Ma non è vero, ma guarda che sei una cosa pazzesca. Passerotta. Hai scritto Passerotta. Il mio ultimo messaggio WhatsApp a Barbara D'Urso, lo posso fare vedere, è la foto di ieri sera. La foto di ieri sera. Scritto, allora, Passerottina, ti amerò Passerotto, per tutta la vita. Non andare via. Vieni a cena con sono me, anche intonato, prometto. Vedi? Passerotto, non andare via. Beh, insomma. Sì, sono intonato, sono intonatissimo. Che stai scherzando? Per Sanremo c'è ragazzi, da lavorare. La verità sai qual è? Dobbiamo fare un programma insieme in radio noi tre. No, ma in radio tutta la vita. Ma tu ma guarda che tu sei in radio fenomenale. Stupendo. Se ti lasciassi andare un po' di più, solo che sei sempre legata, non dire le cose su Renzi. Dillo che hai votato Renzi. Dillo, ammettilo. Confessalo, apertamente. Non ho potuto votare, stavo a Milano. E però, ti piace moltissimo, Renzi. Come personaggio, dai, personaggio. A me, no, ma guarda, non proprio. Stavo guardando il vestito bianco. Quello che ti devi vestito mettere. Bianco, quello là che mi devo mettere. Ce n'ho uno qua davanti, bianco, un po' leggero. Ecco, metti bianco ma leggero. Io lo metto, poi fammi, ci vado anche a cena fammi, con te. Fammi un regalo. Dai un voto ai talk che. Hai visto qualche talk di questi qua? Santoro, l'hai visto? Ballarò, Floris, l'hai visto? Ah, non hai capito che sto chiusa qua dentro. Mi parte domenica. La domenica, niente, Cruciani. La domenica, Cruciani. Lo so che ti parte la domenica. E sto qua. Invita Parenzo ogni tanto. Ma devo fare delle cose per la sera D'Urso, infatti. È già previsto. Parenzo, guarda che c'ho un talk bellissimo domenica. Avresti anche potuto farmi un pezzo per me. Lo so, questa domenica. Ma non i figli che... sempre i figli. Comunque hai sentito che Berlusconi la Pascale ha detto che il loro rapporto com'è Parenzo? Che cos'è che ha detto la Pascale? Bellissima sta cosa. Pascale e Berlusconi li inviterai o no Pascale e Berlusconi insieme? Andrà alla chiusura del Gay Village peraltro, eh? Sì. Lo so. Brava, eh? Sei dalla parte della Pascale su questa cosa gay o no? Bravissima, ha fatto bene. Assolutamente sì, certo. Tu che sei una paladina come me delle coppie gay, del matrimonio e anche dell'adozione, diciamola tutta Barbara, anche dell'adozione. L'adozione non so ancora deciditi, molto ben sicura. Deciditi. Però io sono assolutamente per la libertà, sono per i diritti civili, guai a chi mi tocca proprio il matrimonio. Io sono stata testimone del matrimonio l'estate scorsa del mio migliore amico col suo compagno dopo 12 anni, quindi assolutamente sì, guai. Ma pure l'adozione. Eppure l'adozione sì. Sì, dillo allora. Sono ancora un po' incertino. Comunque la Pascale ha detto che il rapporto tra lei e Silvia è un rapporto trasgressivo. Sono trasgressivi. Per la differenza d'età, ha detto. Sì, per la differenza d'età, vabbè. E quindi? No, per dire, per cui vedi, si possono avere rapporti trasgressivi. Perché tu mi sembri molto, invece, nei rapporti molto così tradizionale, non sei trasgressiva, secondo me, con un uomo. Ma che ne sai, dipende. Secondo me non sei trasgressiva, non so, una mia impressione. Chissà, bisogna vedere cos'è la trasgressione, sai. Senti, un'ultima cosa, voglio chiederti su Napoli, ma secondo te, è una cosa un po' seria, da napoletana, eccetera, ma quel ragazzo che è morto, un po', la colpa è di Napoli, dell'illegalità di Napoli, bisogna dirlo, cioè non è che è morto, sì, il carabiniere, poi si vede. No, fermi tutti, non possiamo fare un discorso così serio adesso e così alla radio. Non si può fare. Ne parliamo domenica, ne parlo con la mamma perché non si cazzeggia su questo, no. Ma non mica stiamo cazzeggiando, No, sì, lo so, però... No, ci hanno massacrato. Che va affrontato bene. Va affrontato bene, lo faremo domenica con calma. Ci sarà qui la mamma. Avremo anche dei video esclusivi che lei ci porta, eccetera. Però, secondo me, nella sua vita, per concludere, per esempio, Parenzo ogni tanto ha fatto delle confessioni anche qui. Ha detto che lui ogni tanto si fa delle canne. Io, per esempio, ho detto perché è tanto? Ma secondo me te la sei fatta qualche giorno? No, te lo dico. Io, per esempio, non mi sono mai drogato in vita mia. Secondo me, quando era giovane, un po' così, Barbara se l'è fatta le canne. Mai una droga in vita tua? No, droga guarda proprio zero. Cioè, zero. Ma che vizio? C'è un vizio? Dici un vizio che hai? Un vizio? Mai droga? Un vizio? Uno. Fammi pensare. Il caffè? No, te mangi le unghie? No. No. Che c'hai? Che fa sesso non ce l'hai come vizio? Un vizio. No, sesso non ce l'ho come vizio. Droghe no, anche perché sennò non potrei essere così energico. Non hai vizi? No, perché sennò. Oddio, qualcuno dice. Droghe no. Non... Sì, dice il contrario, nel senso. Sì, ragazzi. Eh? Nessun vizio, non c'è potrei, vizio. Non potrei se fossi drogata non potrei fare la vita che faccio. No, alle 6:30 del mattino vado a correre nel parco, quindi pensate, sto qua. Non hai vizi, non hai vizi. Bere non bevo, bevo il vino, mi piace il vino. Vabbè, quello non è un vizio. Mi piace il vino. Madonna, sono così tristemente normale. Una tristezza totale. Cioè, sono così tristemente normale. Sei come quelli che ti ascoltano, è normalissimo, senza vizi. Cioè, veramente, che palle. Infatti è per questo che gli uomini scappano. Ma perché scappano poi davanti a te? Perché scappano? Ma no, perché arrivano lì, dicono, la D'Urso, figurati, sì, dai, mo ci provo con la D'Urso, figurati, no. Cioè, non batto quella, chiodo, non ma batto. Quella, non capito, batto. No, quella la D'Urso, poi figurati, no, quella la vedi com'è forte. E chi la tiene al guinzaglio la D'Urso? Non batti chiodo, non batti invece chiodo. Io voglio un uomo che mi... Che ti sottometta. Bravo, l'hai detto tu. No, vabbè, lo dici tu anche, no? L'hai detto tu. Ma e tu confermi però. Che capito? Bravo, poi, che ne so, dico... Che ti sottometta? No, ho detto, non ti sottometta, no, però... Che mi domini, no. Va bene, domini? No, neanche. No, governi. Che uno dice che, capito, io faccio un po'... Perché è quello, ma che... Mi tenga, che mi tenga. Non vuole dare una definizione di quest'uomo. Capito, ma che... Oh. Ciao Barbara, a presto, ciao ciao. Ciao, fate i bravi, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo a Firenze, Adil, buonasera, Adil. Buonasera. Dimmi. Scusi, ma finché sono i nordici a criticare e offendere Meridionale, va bene, perché sono, invece di acculturarsi, sono tutti i giorni chiusi in fabbrica. E hanno paura anche del vicino di casa. Ma lei che è beduino ciuciaro, perché è stato anche... Che cosa sono io? Che cosa sono? Lei non è ciuciaro? No, non sono ciuciaro, sono romano, ma non mi vergognerei di essere ciuciaro, ma sono romano, è una cosa un po' diversa. Lei sa dov'è la ciociaria? Lei sa dov'è la ciociaria? Sei un meridionale anche te. Lo sa dov'è la ciociaria? Non voglio sapere. Ma lo sa dov'è, siccome ha detto ciociaro, lei sa dov'è la ciociaria? Lo sai perché? Lo sa dov'è la ciociaria o no? Me lo dica lei. No, ma lo sa dov'è o no, dato che ha detto ciociaro? Ma perché lei insiste? No, ma lo sa o no? Perché lei, pensando di offendermi, dice dov'è Agadir? Certo che so dov'è Agadir. Non si preoccupi, che lo so dov'è Agadir. Vabbè, ma non è un problema. Lo so benissimo dov'è Agadir. Dov'è la ciociaria? Bene, lei è stato anche in Francia. Lei non sa dov'è la ciociaria, perché lei è ignorante come una zucca, ha capito? L'ignorante è lei, perché per quei discorsi che fa... Ma su che cosa? Ma su che cosa? Sei un ignorante, perché se lei offende i meridionali... Io non ho offeso nessuno, io dico come la penso, punto, senza offendere nessuno. No, infatti come la pensi male, perché così offende la gente. Lei è stato anche immigrato in Francia, l'hanno insegnato anche... Ma immigrato in Francia sarà stato sua sorella, io non ho fatto immigrato in Francia, sono andato in Francia a lavorare, capito? Ha sbarcato i confini francesi, quindi... Ma che c'entra immigrato? Sai, tu ero all'interno dell'Unione Europea, non c'entra niente, non sono immigrato. Ma comunque non mi vergognerei, di fare l'immigrato, Adil. Vabbè, lei non sa dov'è la ciociaria. Dice cazzate, qual è il punto? Non ho offeso i napoletani, allora? No, perché non so dove sta la ciociaria. Ma perché lei ha detto ciociaro senza sapere dov'è la ciociaria? Agadir comunque è in Marocco. Comunque, Adil, abbia pazienza. Ma la ciociaria è in Italia. Ma dove? In che zona è? Qual è il capoluogo della ciociaria? La città principale della ciociaria, qual è? In che regione è Agadir? E poi gli dico io dove. Ma lei non sa nulla. Grazie ai meridionali, anche all'estero, se lei mette un meridionale, un napoletano... Ma chi ha detto niente? Io ho parlato di quello che succede a Napoli, fra poco le farò sentire qualcosa di quello che succede a Napoli, io lo faccio sentire perché è stato mandato ieri a servizio pubblico dal Campano Santor, ma che è stato abbandonato, basta con queste cazzate, queste buffonate, la borsa, poi torni sì, borsa, il traffico, quello che diavolo è. Rispettano le leggi, sono molto rispettosi. Ma chi ha detto leggi? Che non ci sono persone? Ci sono molte persone che rispettano le leggi, ma ci sono anche, c'è anche una grandissima illegalità. Il casco, sono napoletani, quei ragazzi che vedono al nord. Ciao Adil, ciao, traffico. E ovviamente, come ogni giorno, perché abbiamo un sacco di materiale, Italia, paese di merda, nuova grandissima rubrica. della zanzara, scriveteci alla zanzaretta@radio24.it per segnalarci delle cose che secondo voi fanno dell'Italia un paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Allora ragazzi, state attenti, il ministro della difesa Pinotti la sera del 5 settembre è tornato a Genova, o tornata a Genova, con un Falcon in missione di addestramento, cioè è arrivata a Ciampino con un aereo di Stato. Beh, ministro. E va bene, d'accordo. A Ciampino però, invece di aspettare il giorno dopo per tornare a Genova, chissà perché si trovava lì un Falcon che era in volo, fermo lì, che però è stato classificato come addestramento. Ma quale addestramento? Addestramento per i trasporti privati del ministro. Con un vestito gessato sul blu. La Pinotti dice che il volo sarebbe stato destinato a una missione di addestramento organizzata a prescindere da lei. Ma i piloti devono raggiungere un certo numero di ore di volo ogni anno per mantenere le abilitazioni. E ovviamente questa esigenza diventa utilizzabile come una specie di jolly per fare contenti i potenti di turno. Il Fatto Quotidiano ha scoperto tutto. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. È uno stato di merda che andrebbe processato. Buongiorno Dio. Questa è forte, ragazzi. Allora, secondo la Cassazione si possono dare le attenuanti per lo stupro quando l'uomo che stupra la moglie, una donna, eccetera, eccetera, è ubriaco. Questo è pazzesco. Cioè, è possibile concedere le attenuanti agli uomini accusati di violenza carnale completa quando, per esempio, come nel caso di cui si è occupata la Cassazione, l'uomo è ubriaco. Questa è la merda d'Italia. Questo è. Bene, Beatrice, Firenze. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao. Sono una transessuale di Firenze, sì. E sono incazzata nera con quella, la Biancofiore che ha parlato prima, sì. Io mi sono rotta i coglioni, che non ho più perché mi sono operata, ma mi sono rotta i coglioni, sì. Ok, di queste, delle persone che pensano che le transessuali facciano solo le puttane. Io mi alzo alle 5 la mattina, alle 5 vado al lavoro e torno la sera alle 8, guadagno 1000 euro al mese, e questi qui ancora a dire che le transessuali fanno le puttane, il gingillo, la gingilla. Mi avete rotto i coglioni. Siamo persone normali, normali nel senso non saremo normali nate normali, ma viviamo da persone normali come gli altri. Mi sono rotta i coglioni di queste persone, mi sono rotta i coglioni anche delle transessuali zecche di merda, come dice Riccardo La Roma, perché faccio parte anche del gruppo di Riccardo La Roma. Pure. Sono forse l'unica transessuale che fa parte forse del gruppo. Sì. Annuncio forse al gruppo Riccardo La Roma che tra di loro c'è una transessuale. Beatrice da Firenze, Beatrice, grandissimo. Come ti chiamavi Riccardo. Prima, Beatrice? Come ti chiamavi? Simone. Poi t'hanno... Ciao, Riccardo. Quando hai fatto l'operazione, Beatrice? Tre anni fa a Pisa. E prima che facevi? Lavoravi tranquillamente? Problemi, discriminazioni, casini, che cosa? Che fai prima innanzitutto? Gay. Prima pensavo di essere gay, invece non ho capito che sono una donna dentro un corpo da uomo e dunque ha durato il mio corpo. No, ma spiegami, Beatrice, scusa, tu prima eri gay, che vuol dire? Prima eri uomo e pensavi di essere gay. Sì. Cioè. E pensavo di essere gay, certo. E andavi con gli uomini? Andavi con gli uomini? Certo, sempre andata con gli uomini. Sempre. Poi sempre. Hai deciso di operarti 3 anni fa? No, ho capito che ero una transessuale, che era il mio corpo che era sbagliato, che di mente ero una donna, certo. Da sempre, fin dalla nascita. E allora ho cominciato la transizione, ormoni, questo già 7-8 anni fa. Certo. Poi a un certo punto ti sei operata. 3 anni fa mi sono operata, certo. Ti sei operata. Sto con il mio uomo, conviviamo da quasi 6 anni, cioè siamo persone normali. Cioè ormai sei donna a tutti gli effetti, insomma, questo, certo, ma anche, certo, per l'anagrafe. Dico anche per l'anagrafe, certo, i documenti femminili. Beh, certo, dunque non sei più transessuale. In realtà non sei più transessuale. È una signora. Lo siamo sempre. L'orgoglio transessuale c'è sempre. Soprattutto quando sento queste cazzate pazzesche che la transessuale deve fare la puttana. Io vabbè, spesso succede, puttana, spesso okay? succede, Beatrice, che i transessuali in Italia, ma per me è legittimo farlo, battono perché c'è un mercato. Perché dicono che non li trovano lavoro. Io ho sempre lavorato. Ma no, perché ma tu eri magari un transessuale atipico, ma perché c'è lavoro, c'è un mercato. Quando c'è un mercato che chiede qualcosa, c'è anche un'offerta, dunque battono anche per questo. Ma sì, guarda, però, che non è per quando, però quando la nomea, però Beatrice, scusami, io però non me la prenderei con quelle che battono, o comunque con quelli che dicono i transessuali battono, perché battere, ma vadano al lavoro come dice Riccardo, ma perché non possono battere? Possono anche io battere, sono sempre andata al lavoro, no. Perché cioè possono anche battere, deve essere una scelta libera, però beh certo, quello è scontato, non è detto, io cioè i transessuali che battono ragazzi, io voglio dire, ascoltami Giuseppe, io voglio dire ragazzi, alle ragazze che sentono dentro questa cosa, che pensano di sapere di essere in un corpo sbagliato, che si può diventare quello che si sente senza fare la puttana, va bene? Perché ci sono tante come noi che non l'hanno mai fatto, che fanno una vita normale, sono stanca di sentire sempre la transessuale uguale prostituta, sono stanca, mi avete rotto i coglioni, anche quella deficiente della Biancofiori di prima, ma che diceva che in realtà non siete normali, i transessuali non sono normali, non appartengono al mondo della natura. Vabbè, cara Beatrice, io però devo dirti una cosa, voglio organizzare qui un grande concorso Miss Trans Zanzara. Sono brutta io, Giuseppe, ho 47 anni. No, ma mica ti volevo invitare, per carità, c'è Miss Trans, lo so, anche quello, però anche quello non va bene. Ascolta, non va bene Miss Trans, non va bene assolutamente. Ma vabbè Beatrice, perché? Però ma lascia le persone, ascolta, lo sai chi la pubblicizza Miss Trans? Chi la pubblicizza? Ci sono dei locali che fanno, parliamoci chiaro, prostituzione. C'è sempre dietro questa cazzo di cosa. Non mi piace. Vabbè, ho capito. La parola transessuale è accostata a quella alla prostituzione. Ho capito. Esatto. Fatene una ragione, però. Non è che. Cioè, tu sei un'eccezione da questo punto di vista, o no? No, siamo tante come me. Siamo tante. C'è chi fa la poliziotta, c'è chi fa l'avvocato, c'è chi fa il medico, c'è chi fa l'operaia. Ce l'hanno tante così. La gente manco se ne accorge. Io sono a contatto con le persone al telefono. Pensa al telefono. Per esempio, la nostra amica Efe Ball che si prostituisce, per te che cos'è? È una cretina anche lei. Sì. Te sarai amico. Sì, sono amico. Certamente. Però io non li sopporto perché ci fanno una nomea sbagliata. Ho capito. Ti abbraccio. Ciao, Beatrice. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Alessandra Carrara, Alessandra, carissimo, vai alla grande, bene, dimmi, cara, dimmi. No, quello che... Ma lo sapete che il colombiano, il giocatore colombiano Asprilla, tu non te lo ricordi, ha lanciato Tino, una linea di preservativi al sapore di frutta. Cioè, una cosa per... non è nuovo però, strano. Ma io li uso perché ne uso tantissimi. Alla frutta. Ma perché, bravo. Qual è il problema? Non ti fanno schifo i preservativi alla frutta? No, non ho capito. Ma no, non mi fanno schifo. Non usi preservativi tu, non usi preservativi. No, non uso preservativi, non faccio sesso perché non me ne frega niente. Pensa te che non fai sesso, pensa che tristezza di vita. Bravo, pensa che tristezza. Sei tristissima, sei tristissima. Sì, dai, guarda. Ma tu lo sai, lo conoscevi Asprilla? Asprilla? No, non lo conosco. Era noto per avere un arnese grosso così. Per un altro motivo. Vabbè. Ma chi se ne frega del pene? Ma no, io veramente adesso parte tutto. Torniamo seri. Buonasera. Io ho telefonato, il perché lo sapete, perché tanto ve l'hanno detto prima. Cosa? Perché vorrei invitarvi a tenere un livello della trasmissione più alto. Sei una persona coltissima. Sì. Perché hai un cervello che ce l'ha. No, ma ma non è che dici sì così tanto per svogliatamente. Siete delle persone intelligenti e aiutate l'Italia a stare con aiutate una, l'Italia sì, dai, aiutate l'Italia una, sì, aiutate l'Italia piccolo, ma io voglio aiutare me stesso non l'Italia ma a me che cazzo me ne frega anche, ma come che cazzo ma dai su l'Italia, basta dai, con sta storia vergogna, aiutare sì, l'Italia ma smettila che te ne frega, altrimenti non saresti lì dai allora sposta, la battuta più bella non di oggi che voi no ascolta vai su ma basta che con i clienti, con gli ospiti e con noi che vi ascoltiamo. Però guarda che stiamo diminuendo, perché noi ci sentiamo diminuendo fine... un cazzo. Sì. No, un cazzo. No, sì, ma questo qua, io, questo sì, ci sono le... Sì, stiamo no. diminuendo. No, sono finte le cose, guarda, sì, stiamo finte. Diminuendo. Perché ma andiamo diminuendo chi? Diminuendo. Diminuendo chi? E ascoltatori, ma diminuiranno i tuoi gli ascoltatori. Donna che non fai sesso, donna che non fai sesso. Donna più forte. Donna che non fai sesso. 9 in punto. Ma guarda, dai, se mi riascolto dai, mi viene da vomitare. Dai. Se mi riascolto mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. Ma mi vi... assolutamente sì, certo, è chiaro. Beh, se, no, se no sarei un masochista. Sarei masochista. Sta crescendo il naso, ti vedo. Ma figurati, dai. Alessandra, comunque, ma non ci credo che non fai sesso tu. Ma senti, comunque queste cose sono... Ma me l'hai detto tu che non fai sesso. Ma me l'hai detto tu. Guarda, ecco appunto, anche la telefonata. Ma quanti anni hai? Quanti anni hai? Era una cosa, sono molto più giovane di te. Quanti anni hai? Vengo a dire i fatti miei. Non ti dico gli anni. Ma peggio per te se non fai sesso, se sei più giovane peggio per te. Ascolta, va bene, senti, anche le telefonate con la Barbara D'Urso, portatela fuori a cena e poi dille quello che devi dirle in faccia, senza che lo fai ascoltare a noi. Ma chi se ne frega della Barbara D'Urso? Ti abbraccio, ti do un bacio, amica. Ti abbraccio, sì, anch'io, amico. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Dovremmo fare una cosa, una rubrichetta, no? Poi se la prendono con noi. Succede a Napoli. Succede a Napoli. Poi se la prendono non è il momento opportuno. Accade a Napoli. Ieri a servizio pubblico ho visto delle cose pazzesche. Senti questa Vox Populi da servizio pubblico, eh? L'unico modo per fare soldi è spacciare o rubare, l'unico modo, capito? La solita scusa, siccome non c'è lavoro, dicono, non c'è lavoro, eccetera. Non c'è lavoro. Non c'è lavoro, l'unico modo è spacciare o rubare. Niente lavoro, niente, io ho due bambini. L'unica via per fare soldi, ti devi buttare là, capito? È spacciare. Spacciare, rubare. Ma è mano la camorra lo spaccio, forse. Ah, no, questo non lo so, è niente. Ma poi ci lavoravi, diciamo. Ma no, non te lo posso dire. La vera camorra è a Palazzo Chigi, dice un altro. Uccidono tutte e due, se la camorra e lo Stato. E per lei non c'è differenza tra camorra e Stato. No, la vera camorra è a Palazzo Chigi. Ma questo se lo la camorra sa. La camorra, l'andrangheta, la camorra, la guacorù. Sono questi qua, lo Stato. Meglio la camorra, qui non c'è malavita, che poi è la classica tesi, no? Cioè dove c'è la camorra regna la pax, che poi è vero, diciamo, da un certo punto di vista, però c'è la camorra però, eh. Beh, te... Che ti devo dire, sì? Quello che pensa lei? Dico sì. No, quello che pensa lei? E me, se i ragazzi devono fare questo video, meglio la camorra. Guarda di noi, tutta brava gente sta così. Qua non succedono omicidi, non succedono furti, non succedono niente. Adesso è una malavita qua. Non c'è la malavita. Dove sta la malavita? Vedi tu? Ragazzi, e te credo, la malavita controlla per è passata forza. per razzista la Viviana Beccalossi, almeno nei sì, commenti l'ho sentita. Viviana Beccalossi, e credo che sia deputata Fratelli d'Italia. Non è più in Parlamento, credo. No, è consigliere regionale. Per avere detto una cosa molto semplice, che nella regione dove è lei, cioè la Lombardia, in tre in motorino non ci vanno, ma che è vero. Poi c'è stato pure un servizio di Striscia Notizia che ha mostrato tutto, vabbè, ma non ci voleva Striscia Notizia per scoprire quello che succede a Napoli. Comunque, Beccalossi ha detto una cosa molto. Nella mia regione, in tre in motorino non si va. Ma è così, è normale. Cioè, ma è la normalità. Ma, si sa, cioè, ma è la normalità. Non c'è legge in alcun. Non esiste la legge, è come se fosse un altro Stato in alcuni momenti e in alcune zone. Mai poteva succedere nella mia regione, in tante altre regioni d'Italia, che un ragazzino di 17 anni fosse alle 3 di notte in tre su un motorino senza casco, un pregiudicato, un latitante, che non si fermava all'alto dei carabinieri e succedeva quella disgrazia immane che è successa, ma soprattutto non sarebbe mai successo che i cittadini avrebbero manifestato contro i carabinieri. Vabbè, Marchionne... Beh, lì hanno manifestato per la morte del ragazzo. Sì, Marchionne ha detto una cosa a favore di Renzi oggi. Appoggiamo le riforme del governo Renzi. Qualche istante fa, Della Valle a 8:30 ha detto l'incontro o l'accordo tra due sola. Mi sembra di aver capito, no? Della Valle. Della Valle. Lotta tra all'interno dell'establishment. Cioè, i rapporti da Della Valle e Marchionne non sono mai stati grandi rapporti. Ha detto il Corriere. Due grandissime sole. Innanzitutto c'è da registrare la rottura definitiva tra Della Valle e Renzi, perché quella tra Della Valle e Marchionne già era abbastanza nota, no? Va bene, andiamo a Latina, Gennaro. Luciani, vai, dimmi. Da un po' di tempo, comunque volevo dirti questo, ma secondo te il fatto dell'Italia di merda, tu non è che contribuisci pure tu? Ma che me ne frega, io sono una persona che non ruba, non evade le tasse, non evade il fisco, cerca di comportarsi da bravo cittadino, ho le mie idee, dunque non faccio parte sicuramente dell'Italia di merda, dico quello che penso. Volevo dire un pochettino una cosa, cioè, sai, quando tu chiami per una cosa, però senza volere, ho sentito, tu si sente che io sono di Napoli, no? Vabbè, allora... Volevo dirti soltanto... Sintesi. La sintesi, io... abitavo in un posto a Napoli, di fronte a me vedo qualcosa che non va, antiabusivismo, vado all'ufficio antiabusivismo per portare la denuncia e vedo che dietro al banco dell'ufficio antiabusivismo c'era questa persona che io non sapevo che faceva il vigile, lì ho chiesto per favore, ma Cruciani non c'è, tanto per dirlo, e ho dovuto cambiare, tanto per darti un'idea, il fatto della camorra, questa e quest'altro, dove è e dove non è, anche nei siti dove non ci dovrebbe essere. Comunque io Non ho capito niente, Gianna, non si è capito niente. Comunque hai chiamato per un'altra cosa, quale? Sì, io avevo chiamato per la signora Biancofiore. Che praticamente ha parlato del fatto del cane, che il cane. Ma gliel'abbiamo chiesto noi, però, vai. Sì, e poi praticamente che lei spera tanto che Berlusconi vada al Quirinale. Al Quirinale, sì. Ecco, ma cioè, praticamente vogliamo ancora aumentare a fare quell'Italico a cui abbiamo parlato poco fa. Vabbè, Andrea da Milano, grazie Andrea. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vai, vai. Ciao, caro. Io volevo dire a Salvini che l'omosessualità è uno degli strumenti che ha madre natura per limitare le nascite in un pianeta sovrappopolato. Ma questa è una teoria piuttosto bizzarra, però devo dire. Aspetta, c'è un modo per controllare le nascite, cioè siccome gli omosessuali non hanno figli, vabbè, ma è una puttanata questa. No, ma il concetto è che la natura è un sistema equilibrato, non come la Lega. E l'omosessualità serve per diminuire il sovrappopolamento. No, ma ho capito, ma non mi sembra che sia, anche se vuol dire. Cruciani, scusa, io non cioè tu dici se non ci fossero gli omosessuali avremmo un mondo sovrappopolato. No, voglio dire semplicemente è questa, hai detto, decide, però. No, che la natura decide se far fare o meno figli. Io non so, facciamo un passo in avanti, non so se tu ti sei letto il romanzo Tropici Milanesi. No. Non l'hai letto, dovrebbe si trova un romanzo, magari. Io leggo pochissimi libri. Parenzo invece che è molto acculturato, no, pochissimi libri, ma non l'ho pochissimi letto questo, non l'hai letto Tropici Milanesi. Comunque in questo Tropici Milanesi l'autore descrive gli inesistenti, che sono un gruppo di persone alle quali lo Stato impedisce di esistere perché manca una loro definizione sociale. Cioè il problema è che per colpa di gente come Salvini si discute su quale senso possano avere alcune esistenze. È pericolosissimo. Vabbè, questo ragionamento. Grazie Andrea, grazie. Ciao. La conclusione con Mandarino. Beh, devo fare la conclusione con Mandarino, ma, come ieri. No, ma poi bisogna... Sì, un Mandarino. Ma dov'è? Mandarino, no. Ma dov'è? Bisognerebbe chiamarlo ogni giorno, sì, un Mandarino. Mia, sul Duce, senti, Duce grande statista. Mandarino, quello ciccione che vedete nei video. Stupendo. E il Duce è stato l'unico grande statista italiano, secondo lei? Per me sì. L'unico, l'unico rimasto. Cioè ci vorrebbe oggi in Italia per risolvere la situazione. Ci vorrebbe il Duce. Ci vorrebbe un po' di ordine e disciplina, certo. Uno con i suoi principi. Ha qualche foto del Duce a casa? Mi sembra di aver capito di sì. Certo che ce l'ho a casa la foto del Duce. Per me è stato uno che ha difeso il popolo italiano più di chiunque altro. Per me è stato chi ha dato la sanità, per me ha dato l'acqua per tutti, per me ha dato tutto, ha creato i posti di lavoro, ha fatto di tutto e ha reso bella l'Italia. La realtà è che ci vorrebbe il Duce, sì, perché in questo momento la classica politica italiana pensano solo ai cazzi loro, punto. Viva il Duce! Lo dico e me ne vanto. Lo dico e me ne vanto, certo. E io sono fascista. Com'è che si chiamava questo? Stiamo parlando di un signore. Com'è che si chiamava? Che si chiama Mandarino. Mandarino. No, di nome, cioè, com'è no, che si chiamava che non Mandarino. Mi ricordo? Ma Mandarino. Emanuele, come si chiamava? Ma non so, Mandarino. Emiliano Mandarino. Gianluca Firenze, vai. Eccomi. Buonasera ragazzi, vi do del tutto, tanto siamo ai bar, non siamo mica... Vai, dimmi, vai. Allora, esordisco con... cioè, un intercalare che dice sempre sì, mi va bene tutto, in realtà non ti va a avere una sega, perché è tutto un prendere... È vero, è la verità, è così. Mi va bene tutto, però... Forte perché è toscano, capito? La te l'ha detta così, capito? Hai ragione, è vero, è un'analisi giusta di Cruciani, bravo. È così. Al di là di quello, poi avete fatto parlare una signora che esalta le doti del suo premier. Ma chi, la Biancofiore? Sì, ma quello sì, mica è Premier Berlusconi, vabbè, allora? Sì, ex, vabbè, comunque rimane il suo Premier, insomma, è una persona... E invece condanna quelli che vanno poi con le puttane, come Parenzo. Vabbè ragazzi, dobbiamo chiudere sempre con le puttane, ma dobbiamo chiudere. Ciao ragazzi, lunedì 18:30.